Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, va bene, iniziamo! No, no, no. Ragazze, ciao. Ciao. Ciao. Dai, ciao ragazze, ciao. Eccoci. Allora, scusate il ritardo. Sì, abbiamo avuto un po' di problemi tecnici. Chiaro, come sempre, se no che nervature è. Ma adesso ci siamo. Oggi siamo Sissi. E io sono Addu. E Zazzi. Esatto. E si spera che adesso vada tutto bene, che ci sentiate tutti per bene. E niente, ben trovati alla nostra terza puntata di Nervature. E niente, siamo sempre su Radio Wombat, ci potete trovare sul sito, sarete già collegati sullo streaming sicuramente, ma comunque trovate tutto lì volendo. E se volete c'è anche il pad, quindi dal sito di Wombat, ovvero radiowombat.net, andate su Ascolta la diretta e poi c'è il sito, il link del pad che vi sarà molto utile. E ora oggi vi spieghiamo sì. Come mai. Abbiamo grandi progetti per voi. Praticamente sulla nostra pagina della radio, quindi su Radio Wombat Nervature, trovate due foto, una con un grande simpatico albero un po' spelacchiato e un'altra foto dove si vedono appunto le nervature della foglia molto, diciamo, artistica, e potrete scegliere quale sarà la nostra foto ufficiale in quanto trasmissione. Eh sì, questa è una grande responsabilità, eh. Anche se, insomma, vi daremo qualche dritta, insomma, anche un po' per capire quest'albero spelacchiato, perché mettiamo la foto di quest'albero spelacchiato. Infatti, perché ora sappiamo che la foto è brutta, che si vede male, però oggettivamente è meravigliosa da altri punti di vista, no? Ve la spieghiamo. Allora, praticamente quel povero alberino spelacchiato è probabilmente un cedro e ha subito una cosatura. O era un cedro. Era un esatto, cedro. Probabilmente era. Ha perso tutta la sua dignità, non so se si poverino. Può definire tale. Guarda. Sì. E ha subito una cotatura drastica, tremenda e soprattutto inspiegabile. Perché come si vede dalla foto non è che lui c'ha niente intorno che magari dava noia a una casa perché era troppo vicino, che ne so, no, così era, boh, senso estetico particolare forse, non si sa. E hanno deciso di dargli un taglio, no? Un po' particolare. Esatto. infatti. E quindi però appunto è messa lì un po' in modo ironico, ecco, è un po' poetico anche da un altro punto di vista. Invece quell'altra foto che può piacere o meno, a me personalmente piace, è una bellissima foto. Quindi possiamo dire che qua abbiamo pareri che supportano entrambe le foto, sì, quindi contrastanti. Poi contrastanti. Quindi non sentitevi in colpa per la vostra esatto, scelta. Esatto, sono esatto. Esatto. E niente, comunque no, l'altra foto no, non è da scegliere, insomma. Un po' troppo professionale. Sì, però professionale, ovviamente è più precisa. Sì, è più per quello ti piace. Sì, esatto. Sì, sì, vero? Quasi si tirano fuori i lati delle persone, quelli un po' più trescioni e quelli un po' più precisi. Lo confesso. E sì, chiaramente è più coerente con la nostra trasmissione, si chiama proprio Nervature, però ecco, sentite liberi di dare la vostra opinione dove? Su direttawombat.vado.li, ovvero il pad, e lo trovate anche dal sito, eccetera, ve l'abbiamo già detto. E quindi, bah, niente, sì. Si parte? Sì. Si parte. Io allora vorrei introdurre, esatto, però con una canzone, sì, molto molto così, no, ingenua, non vogliamo trasmettervi niente con questa, no, canzone, assolutamente. Però contiene il succo un po' dell'argomento della nostra trasmissione. Sì, sì, sì. Le sensazioni che avrete saranno tutte giuste. Esatto, tutti i messaggi subliminali. No, scherzo. Vabbè, facciamola partire, vai. Buon Vediamo ascolto. Se funziona. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Eccoci tornate. Allora, come avete capito un po', no, da questa canzone poco suggestiva, no? Non faceva per niente intendere il tema della nostra, della nostra puntata. Visto che la scorsa volta siamo state molto chiacchierone, ci siamo prolungate tantissimo sull'altro argomento e non siamo riuscite a parlare di questo, ma visto che ci sembrano cose molto interessanti, abbiamo deciso oggi di parlarvi un po' di Natale, no? Visto che uno dei simboli maggiori del Natale è proprio dato dall'albero, abbiamo deciso di parlarvi un pochino di questi alberi di Natale, vedere che tipi di alberi di Natale possono essere prodotti, di quali sono in giro solitamente, insomma un po' di alcune loro caratteristiche. E allora, intanto bisogna fare una prima distinzione, no? Perché noi di solito verso Natale, nei supermercati o comunque in giro, possiamo trovare due tipi principali di alberi, no? Di Natale. Possiamo trovare alberi finti o alberi veri, e spesso, no, c'è tutto questo grande dibattito su quale sia meglio, se sia meglio l'albero finto, l'albero vero, e ci sono pareri molto molto contrastanti, e noi abbiamo cercato un po' di raccogliere alcune informazioni per capire quale potrebbe essere la, la più veritiera, no? Se è meglio, sì, l'albero finto, se è meglio l'albero vero. Per il prossimo Natale ormai. Per il prossimo Natale ormai, sì. A meno che non vogliate festeggiare Natale a marzo. Sì, che esatto, insomma, fa freddo. Perché da qualche altra parte, no? Quindi magari... Ma anche Natale... qui, sì, te lo dico io. Quindi in realtà... E poi lo spirito natalizio dovrebbe essere bisognerebbe cercare di portarselo sempre un po' dietro, no? Quindi portiamo così dietro un po'... dicono. Così dicono. E comunque alla fine siamo giunti alla conclusione che in realtà i pareri sono così contrastanti che non si può dare una vera e propria, un vero e proprio consiglio, forse è meglio quello vero. Qualcosa, qualche, sì, indicazione si può dare. Qualche indicazione, diciamo, sì, però sì, c'è chi potrebbe sempre pensarla differentemente. Comunque, allora, innanzitutto vediamo che l'albero finto è un albero di plastica, insomma, no? E quindi comunque è un materiale non riciclabile, che ha bisogno di una grande quantità di energia per essere prodotto, comunque, quindi è un materiale che non è riciclabile e che inquina anche tanto per essere prodotto, quindi si potrebbe dire già a priori, vabbè, l'albero finto non è esattamente il massimo. Il pro, diciamo, dell'albero finto è che dura tanti anni. Abbiamo visto ci sono alberi di Natale finti di plastica che possono durare anche 30-40 anni. Insomma, poi c'è poca manutenzione, non gli devi fare nulla, sta non chiuso sporcano in cantina e non si offende. Esatto, quindi lo puoi chiudere in una scatola. Ma sì, sparisce. Ma perché no? Ma che, ecco, che bella la plastica. Bella la plastica, oh, vero? Questi sono quei classici alberi che dopo un po' si spelacchiano da un lato, ma tu lo, sì, giri lo sempre giri di più. Un po' come quando lo addobbi, no? Lo addobbi, no, solo, lo addobbi da una solo parte, da un lato. O aggiungi più palline, così, sì, non si, sì, vede. Ecco, pace. Quindi insomma, l'albero di plastica potrebbe avere, uno dice, ma lo prendo, lo tengo tantissimi anni e poi non devo più comprarne un altro. Però invece vediamo anche un po' che alberi di Natale veri abbiamo. Beh, innanzitutto bisogna vedere che, visto che bisogna anche andare un po' più nel dettaglio, no? Siamo sempre, bisogna specializzarsi un po'. Di alberi veri se ne usano principalmente due specie, che sono l'Abies alba, l'abete bianco, e il Picea abies, che si chiama impropriamente, si può dire, abete rosso, perché in realtà non è proprio un abete. Vedremo che sono due piante che si distinguono per alcune caratteristiche, e che però vengono chiamate abete entrambi, quindi l'abies è l'abete bianco e il picea abies è in teoria un peccio. È un peccio, è un peccio. Esatto. Sì, sì, sì, ecco, giusto, giusto. Avevo paura di aver sbagliato, lo sbaglio sempre. È un peccio, però viene chiamato abete rosso, insomma. Ma come si riconoscono, quindi ho detto, perché ci sono alcune caratteristiche che li distinguono abbastanza. Beh, l'abete bianco... Siccome si è parlato nella prima puntata, il riconoscimento, no? Ecco, sì. Di distinguere tutte le varie specie, si continua, boh, si prova un po' a continuare gli argomenti già toccati. Così vediamo se vi ricordate qualcosa, poi vi interroghiamo anche sul palo. Chiaro. Vediamo che l'abete bianco è un albero di prima grandezza, quindi tra gli alberi di prima grandezza sono quelli che si sviluppano più di tutti gli altri, quindi raggiungono altezze di 30 metri, alcuni alberi come le querce anche 50 metri, quindi diventano altissimi. E hanno, quindi sono alberi di prima grandezza che hanno una corteccia più biancastra rispetto al Picea abies e hanno le foglie che nelle conifere, che sono gli alberi appunto che hanno le foglie aghiformi, hanno le foglie sempre verdi, quindi si chiamano aghi queste foglie, non foglie, hanno gli aghi che hanno due linee bianche che si chiamano linee stomatiche sulla pagina inferiore, su una delle due facce. E quindi anche gli aghi hanno un po' questa colorazione biancastra, no? Hanno la corteccia bianca, gli aghi bianchi. E questi... Sì, soprattutto magari quando c'è vento si vede, sì, abbastanza che il colore dell'abete bianco, della chioma dell'abete bianco è sensibilmente diversa da altri abeti. Cioè, sì, questi riflessi chiari, argentei, così, molto belli. Esatto. E questi aghetti comunque sono inseriti singoli sopra i rametti in un modo che viene chiamato a pettine, però l'importante è sapere che sono inseriti singoli e non su rametti più piccolini, tutti a ciuffetti. E un'altra caratteristica che li distingue abbastanza dal Picea abies è che gli strobili, che sarebbero le pannocchiette, quelle sorte di pigne, sono portati in modo eretto, quindi portati verso l'alto, a differenza del Picea abies che invece vedremo li porta prima eretti e poi li porta più penduli, esatto. E quindi questo, soprattutto quando ci sono questi strobili, li differenzia molto come specie. Il Picea abies invece ha una corteccia, quindi abbiamo detto abete rosso, ha una corteccia appunto più rossiccia rispetto all'abete bianco e agli aghi che sono inseriti in modo diverso sul pulvino, sono inseriti in modo radiale, quindi non più a pettine ma in modo radiale. Non so voi, ma io non ho ben capito la differenza tra radiale e a pettine. Si spiega, perché io la confondo sempre. Cioè, a pettine c'hai il ramettino piccolo con gli aghi messi a destra e a sinistra, in modo speculare, come se fosse allo specchio. Invece radiale significa che te sul rametto ce l'hai gli aghi che vanno in tutte le direzioni, quindi a 360 gradi. Esatto. E oltretutto sono più persistenti, quindi vedrai che negli anni il rametto all'inizio era piccino, poi si ingrossa, diventa magari anche di qualche centimetro di diametro e continua a avere questi aghi attaccati. Ah, ecco, molto bello. E poi si impara cose, si imparano cose, sì. Ecco a cosa serve fare le puntate, non è per voi, è per noi. Sì. E poi appunto parlavi del pulvino, sì. Perché, esatto, quindi ci sono i rametti, il pichabes, che rimangono un po' più ruvidini e meno lisci, perché quindi appunto gli aghi hanno questo piccolo picciolo, si può dire. Sì, è vero. Con la che non cade insieme alla foglia, diciamo, come insieme al lago, scusate, ma rimane sul rametto e quindi è più ruvidino se si tocca. Esatto. Ora, senza annoiarvi più di tanto con altre caratteristiche, quindi ricordatevi, l'abete rosso è più rosso, l'abete bianco è più bianco. Comunque, a parte queste cose, dell'albero vero c'è un'altra piccola distinzione, che tanto piccola non è, ma c'è una piccola distinzione che si può fare, sul fatto che ci sono gli alberi veri di Natale che sono portati, vengono portati in vaso e che quindi hanno tutte le loro radici, questo perché vengono appositamente allevati per poi essere usati come alberi di Natale, quindi hanno un apparato radicale, hanno un pane di terra e quindi sono alberi che potrebbero essere recuperati volendo, se trattati nel modo giusto durante il periodo delle vacanze. Mentre l'altro tipo di albero vero è l'albero che viene chiamato cimale o albero tagliato, viene la cima dell'albero. In pratica, quando si fanno alcune operazioni anche in aree boscate, si taglia la cima, abbiamo visto, o dell'abete bianco o dell'abete rosso, e viene usata questa, che quindi non ha un apparato radicale, ha semplicemente un fusto che viene tagliato a un certo punto. E quindi è un albero che poi, sì, magari può essere usato per compost o altre cose, ma non può sopravvivere perché è solo la cima. Sì, insomma. Esatto. Un po' tristino. Sì, però alla fine comunque si è visto che alcuni di questi cimali provengono da altri tipi di industrie, di filiere, diciamo, non direttamente connessi con le decorazioni di Natale. Quindi magari ci sono delle foreste fatte per il legname o delle foreste semplicemente in cui a un certo punto si deve tagliare alberi appunto o per il legname o per fare dei diradamenti, per esempio nelle foreste quelle belle che vengono gestite per benino, e da questi alberi tagliati appunto si può tagliare solitamente la cima, perché è la parte più bella e che va appunto a fusolarsi, come ci piace avere gli alberi, sì, di Natale in casa. Sì, la tipica forma dell'albero di Natale. Esatto, sì. A cono. E quindi appunto quella parte altrimenti verrebbe sprecata, verrebbe bruciata o dalla cima, appunto cimale, no? Dalla cima non si ricava legno, quindi non è che è un vero spreco, è anzi quasi un riutilizzo. Poi chiaro, ci sarebbe da vedere tutta la parte del trasporto, vabbè, sì. Certamente le cose da valutare sono tante, però insomma, intanto sappiamo che esistono questi cimali. Un esempio tra l'altro è alla facoltà di agraria a Quaracchi, che chissà come mai conosciamo, e lì come decorazione ci hanno messo questo alberino che è palesemente un cimale perché non ha neanche un vaso, non hanno neanche fatto finta di metterci il vaso. È inserito su una strutturina tutta sì, piccola, sì. Poi devo anche proprio lì incastrato e non basta. Non è stato neanche addobbato tanto bene, insomma. Vabbè, quello sai. Però dai, almeno apprezziamo l'onestà di dire sì, apertamente vero. Che è un cimale, è vero, non cercano di nasconderlo. Non hanno cercato di mascherarlo. No. In effetti, forse è meglio così. Quindi, andando un po' avanti, praticamente dove sono prodotti questi alberi? Si parla in questo caso di alberi veri. In Italia c'è una buona produzione, e soprattutto in Veneto e in Toscana, quindi eccoci qui, stiamo producendo un sacco di alberini per i prossimi anni e per esempio nelle zone montane dell'Appennino o anche tipo in provincia di Arezzo, Pistoia, insomma c'è una buona produzione, quindi questo perché ci interessa, perché ovviamente se dovessimo scegliere di comprare il nostro albero vero albero di Natale vero, sarebbe più carino, diciamo, prenderlo a chilometro zero o quasi chilometro zero, quindi piuttosto che farselo importare da chissà dove, no? Sarebbe meglio. E infatti, collegato a questo fatto, sappiamo anche che c'è un aumento in realtà delle importazioni di alberi di Natale, e un aumento continuo dalle regioni del nord Italia, ma anche del nord Europa, dell'est Europa, quindi ovviamente se l'albero viene dalla Svezia è giusto un po' meno sostenibile che se mi viene da Arezzo, ecco. Sì, forse sì. Saranno forse più belli, però. E in ultimo, invece, in Nord Italia, appunto c'è, per esempio in Veneto, come si diceva, ma non solo, anche in Trentino, c'è una buona produzione di alberi di Natale, e che è una produzione anche piuttosto, appunto non sono aziende grandi, è piccola produzione, e quindi magari piccole aziende locali che magari hanno qualche ettaro di terra e decidono di fare questo tipo di coltivazione, che tra l'altro è anche piuttosto semplice come tipo di coltivazione, a differenza di altre di tipo vivaistico, anche agricolo, e quindi può essere anche carino, mettiamola così, sostenere questi piccoli produttori. E il problema è che sta un po' al consumatore, quindi a quello che va al negozio, al vivaio, quello che è, a comprare l'albero di Natale, di informarsi del suo luogo di produzione, di nascita. Quindi sperando che chi risponde dica la verità, tra l'altro. Esatto. Anche questo non è scontato. O che non la stia mascherando in qualche modo, quindi cercare un po' di interessarsi. Infatti, a cose. Infatti. Ma magari si fa mettiamo un po' di musica. Sì. Vai, facciamo un'interruzione. Ci si vede. Allora, dopo la canzone di Natale, vi smettiamo di ammorbarvi, sì, in questo modo. Però cerchiamo di continuare un minimo con lo stile, magari così. Con un tono allegro. Esatto, esatto. Ah, tra l'altro la canzone di prima, che non vi si è detto il titolo, non vi si è detto nulla, era... Ora, tanto troverete sempre tutto sul pad successivamente. Un po' di sorpresa, sì, no? Scusate, non sul pad, ma sulla radio. Sì. Sì, sì, va bene. Insomma, la canzone di prima era Love di Nat King Cole. Invece quella che vi mandiamo adesso è The Shout di The Isley Brothers. Yo. Buon ascolto. Ciao, ciao. You know you make me wanna shout, kick my heels up and shout, throw my hands up and shout, throw my head back and shout, come on now, don't forget to say you will, don't forget to say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, say you will, say it right now, baby, say you will, come on, come on, say you will, say it better, yeah, say you will, come on now, say that you love me, say that you need me, say that you want me, you wanna please me, come on now, say, come on now, say, come on now, say, I still remember, do-re-do-wop, when you used to be 9 years old, do-re-do-wop, hey, yeah, I was a fool for you, do-re-do-wop, from the bottom of my soul, do-re-do-wop, yeah, now that you've grown. You know you make me wanna shout. Eccoci tornati. Buon salve a tutti. Buon salve. Ragazzi, siete stupendi, ci scrivete sul pad, che carini. Allora, sì, no, era partita la replica prima, sorry, è che siamo partiti troppo in ritardo, quindi... automatico parte quella. Sì, il sito di Wombat è bravo e fa tutto da solo. Sì. Niente, no, ci avete detto ciao dalla Coin Queen, mi sa ciao, che non ero riferito qui, a me, però. Ciao. Esatto. Viva Spelacchio, grande, non so chi sei, ma grande. Sono sicura che ci saranno voti anche per la nervatura. Sì, infatti ce n'è uno dopo, purtroppo. Io voto nervature della foglia, va bene. Vedi. E invece no, l'albero di Pla fatto con la plastica di mais. Allora, sicuramente ci sono, perché adesso fanno qualsiasi cosa col Pla. O con, insomma, tutte le plastiche teoricamente biodegradabili. Infatti, questo teoricamente, detto un po'... Però no, fondamentalmente appunto ci siamo in realtà documentate e sembrerebbe che molti di quelli che si trovano adesso in commercio sono di plasticaccia brutta e schifosa, sì, che non si può riciclare tra l'altro in quanto plastica, perché magari c'ha il filo di ferro dentro, le stronzate varie, esatto, e quindi è da buttare nell'indifferenziato, punto. Però se li trovate in Pla, bene, mi fa piacere, meglio. Comunque sappiate che in realtà il Pla e tutte le altre plastiche biodegradabili spesso non vengono comunque biodegradate, spesso vanno comunque in discarica. Poi è un argomento che infatti vogliamo affrontare. Sì, volevamo affrontare prossimamente, perché è molto molto interessante. Però intanto vi butto lì il semino, ecco. Magari cresce qualcosa, come dice un nostro professore. Sì. E vabbè, oltre a leggere appunto tutte queste carissimi messaggi del pad, quindi vi ricordiamo di andare su pad.cisti.org, vabbè, diretta a Wombat, per votare la foto, diciamo, della nostra trasmissione, e potete andare a guardare le foto sulla pagina Nervature di Radio Wombat, quindi proprio quella della trasmissione, la home, e anche lì trovate il link, quindi non potete sbagliare, votate, abbiamo messo pure i nomi, Albero Spelacchio o Nervature della Foglia, esatto, e fate la vostra scelta coscientemente. Per chi si fosse collegato da poco, magari non ha sentito l'inizio, e la foto dell'albero spelacchiato è figa perché è ironica e perché fa vedere una una nervatura. Vedi, no, che in realtà il tuo subconscio ti dice qual è la scelta corretta. Upsi. No, Non credo, cara. Allora, quindi fa vedere una potatura fatta veramente, veramente male a quel povero cedro, penso sia un cedro poverino, che non aveva motivo di essere potato in quel modo. No. E quindi a me fa sempre molto ridere quando la vedo quella foto. Inoltre mi piace che sia sfocata e che si veda male perché è ancora più trash. Ecco, questo a me no, questo però, è un gusto personale. Però sì, io apprezzo quella foto, è molto, molto quello che non si dovrebbe fare. Non mi stiamo insegnando quello, quindi è solo infatti, molto divertente. Quindi mi raccomando, se vedete un albero in giro così non va bene, esatto, non è un esempio esatto. da prendere. Esatto, tendenzialmente no, direi che non va per niente bene. No, no, insomma. L'altra foto invece è solo bella, effettivamente è molto bella e c'ha molto emblematica, insomma. Sì, sì, sì, sì, sì. Ci rispecchia bene, chiaramente. Sì. Ah sì, no, possiamo dire proprio cercate perché... di dirlo in modo convincente. No, no, è professionale, professionale, sì. Ma sì. Certo, sì, sì. È che, dai, già nervature indica una cosa, quell'altra un po' più... Sì, però potremmo dire in effetti perché abbiamo scelto il nome nervature, che non so se l'abbiamo mai detto. Potrebbe essere una buona idea. Potrebbe essere una buona idea. Perché è una parte della pianta, cioè quindi una parte della foglia, e perché è quel flusso di conoscenza, no, è vero, di nutrienti in realtà, che fa portare appunto tutti i nutrienti nelle foglie e in tutte le altre parti anche della pianta. Ma nel nostro caso poteva essere paragonato appunto metaforicamente al flusso di conoscenza. Beh, cioè, ma se ci capito? Pensi, qua, ma se ci pensi, è per in realtà le piante non si scambiano mica solo nutrienti dentro la pianta. Esatto, giusto. Cioè, infatti. Anche il fatto che comunque si mandano segnali elettrici lungo tutte le parti della pianta può essere quella una conoscenza. Quindi anche per il mezzo delle nervature. Il fatto che questo. Si mandano anche fotosintasi, quindi molecole già complesse, carboidrati praticamente, zuccheri, da una pianta all'altra tramite anche queste nervature, non solo, ma insomma anche, tutta una serie di cose, certo, certo, molto bello, molto simbolico. Però sì, direi che siamo, sì, già, siamo troppo brave, seri, già troppo seri con questo nome, quindi bell'albero spelacchiato. Infatti, potrebbe alleggerire un po' è la giusta insomma. Via di mezzo. Infatti, infatti. Comunque, proseguendo lungo il nostro argomento... Sì, se no ci perdiamo in chiacchiere. Poi facciamo una puntata di Natale a febbraio. Sì, perché non abbiamo ancora finito. Buon Natale a tutti, tra l'altro. quindi proseguiamo, direi. Puntata prossima, sì. Vi auguriamo buon anno. Giusto, giusto. Ah, giusto, giusto. Che non si fanno i botti. Quella dopo ancora, buon compleanno. Buon compleanno. Quello anche oggi, in realtà. Buon compleanno, compleanno a chi compie gli anni. Sì, sì, sì. No, anche agli altri, scusa, poverini. In ritardo, hai ragione. A quelli che l'hanno compiuti cioè, prima di oggi. Anzi, no, solo a quelli che non fanno gli anni oggi. Okay. Perché noi siamo sempre in ritardo su qualsiasi cosa. D'altronde abbiamo fatto questa puntata, cioè, noi stiamo registrando 2 anni fa. Assolutamente, anche sì. Oggi è così, certo, certo. Sì, sì. Siamo sempre a 2 anni fa, comunque. Sì, sì, sì. Comunque, visto che stiamo di nuovo divagando tantissimo. No, ma che dici? Continuiamo un attimo, abbiamo parlato di alberi veri, alberi finti, ma vediamo un po' anche alcune cose in più. Esatto, allora, a proposito di alberi veri, si è detto più o meno dove vengono prodotti a livello di luogo, località, e invece entriamo un po' più nello specifico, poco, tranquilli, della produzione, della coltivazione proprio. Allora, dobbiamo immaginarci la produzione di alberi di Natale veri, ripeto, come una produzione vivaistica o, magari ce l'avete poco presente, una vivaistica, ma immaginatevi un'agricola, quindi come io produco i pomodori, la pianta i pomodori per vendere i pomodori, eccetera, e li fertilizzo a bomba, qualsiasi cosa, e uguale io produco anche gli alberi di Natale. E oggi quindi... non hai preso come esempio la zucca, quindi siamo... È vero. Potete testare che conosci anche altre colture. Perché la Dele, la A2 è un po' la persona della zucca, no? Quindi sì, sì, sì, chiaro. Ci dà sempre questa zucca e oggi abbiamo cambiato quei pomodori. Oggi sono il pomodoro, va bene. E quindi... allora, dobbiamo appunto immaginarci questo tipo di produzioni come, a me mi verrebbe da dire prima di tutto, normali. Cioè, ogni anno il vivaista, o comunque vabbè, l'agricoltore di alberi di Natale, di abeti bianchi per esempio, o di pice abies, si mette lì e mette il seme o più probabilmente la piantina, e aspetta che cresce. Nel frattempo gli dà l'acqua se c'è bisogno, gli dà fertilizzanti, di sicuro glieli dà, anche se gli abeti magari sono un po' non particolarmente esigenti in quanto a nutrienti, fertilizzanti, eccetera, ma sicuramente gli dà anche fertilizzanti. E ogni anno fa questa cosa, ogni anno aspetta che tutti i suoi begli alberi crescano, ogni anno taglia alberi o comunque sradica alberi da fornire alla filiera appunto degli alberi di Natale, quindi è una cosa standardizzata. Allora, ho fatto tutta questa premessa per far capire che non è come andare a disboscare a caso o a deforestare, a tagliare foreste, oh mio Dio, gli alberi, i nostri amici. Per carità, sono d'accordo, sono gli esseri viventi e tutto, però come noi sempre si fa utilizzo proprio molto funzionale, antropico, di un sacco di colture vegetali, lo facciamo anche degli alberi di Natale, quindi vediamoli nello stesso modo, ecco, trattiamoli nello stesso modo. E niente, quindi ovviamente vabbè, la produzione e la coltivazione di alberi di Natale può essere chiaramente di più tipi, ci sarà quello più bio, più, quello meno bio, quello che se ne frega totalmente di robe ambientali e fertilizza a bomba, inquina un sacco, tutte varie cose ovviamente. Comunque il prodotto finale dovrebbe venire un alberello alto, a seconda ovviamente della richiesta, potrebbe essere alto, non so, 1,50 m, come 3 m, come 4 m, a seconda di quello che serve, e che deve avere una chioma folta, bella, un bel colore. E, l'unica cosa è che ci sono degli accorgimenti particolari nelle coltivazioni degli alberi che poi vengono venduti con la zolla, quindi con la zolla significa con zolla, terra, radici, ovvero piante ancora vive, non cimali come si diceva prima. E che possibilmente possono vivere anche a lungo, lo vedremo dopo. Esatto, infatti possono continuare la loro vita anche dopo il loro primo utilizzo natalizio. E, appunto, questi alberi dovrebbero essere coltivati non solo in terra ma anche in vaso, cioè a un certo punto della loro vita, del loro ciclo vitale, devono essere trapiantati in vaso. Perché poi verranno venduti in vaso e quindi praticamente le radici di una pianta coltivata in terra rispetto a quelle di una coltivata in vaso sono molto molto diverse. E vabbè, questo è un argomento un po' più complesso, comunque sappiate questa cosa, ecco. E niente, invece riguardo ai cimali, si è già un po' detto prima, possono venire da coltivazioni per il legname o altrimenti da altri tipi di boschi, quindi per esempio da diradamenti che si fanno su altri tipi di boschi. Esatto, quindi sì, anche se sono un po' tristini, alla fine anche loro, diciamo, è un riuso di un qualcosa che comunque è stato tagliato per qualche motivo. E per quanto riguarda però quindi quello che avverrà dopo ai vostri begli alberini, innanzitutto secondo Lisa, che non è una persona ma è una società internazionale di arboricoltura. Magari è una persona che si maschera dietro una società e noi non lo sappiamo. Sì, esatto. Questa grande ente e dice, diciamo, indica come periodo nella quale è bene... entro il quale è bene, diciamo, tenere l'albero, quindi per non farlo soffrire troppo all'interno della casa, e appunto dice che è bene non tenerlo più di 5-7 giorni all'interno della casa e soprattutto comunque di stare attenti di apportargli dell'acqua, di tenerlo lontano da fonti di calore, quindi magari, ecco, non mettetelo vicino al vostro termosifone e per, insomma, per la povera sopravvivenza dell'albero. Inoltre, appunto, quando finiscono le vacanze, potete o decidere di ricontattare il vivaista dal quale avete preso il vostro albero e quindi chiedergli se lo può riutilizzare, insomma ripiantare, e quindi farlo crescere altri anni al vivaio, oppure potete chiamare centri di raccolta che sono spesso organizzati anche da associazioni di volontariato, comuni o altre aziende, appunto predisposte allo smaltimento dei rifiuti, e che poi utilizzeranno questo materiale, essendo appunto materiale organico, come compost, soprattutto se comunque sono alberi ormai secchi o danneggiati, quindi difficilmente diciamo recuperabili ulteriormente come verde ornamentale. E altro appunto, se invece volete dargli una seconda vita, quindi continuare a farlo crescere, appunto abbiamo già detto che o si chiama il vivaio, oppure si può chiedere di anche rimpiantarlo per rimboschimenti eccetera. Per fare questo però è bene tener conto di quella che è la provenienza dell'albero, in maniera da non portare in ambienti non idonei una specie che non ci può vivere, oppure anche per evitare la diffusione di alcuni patogeni o altro. Insomma, è sempre bene tenere tutto sotto traccia. Sì, perché ovviamente questo è un discorso generalissimo. Se si pianta una specie che ha bisogno di 3 gradi centigradi in un posto che ce n'ha 40, forse non starà molto bene. Direi proprio quindi di no. Il nostro tentativo di salvare la pianta non avrà successo, no, fallito veramente. Ed è anche per questo che appunto spesso magari viene anche detto che è un po' inutile ritrapiantare l'albero in un ambiente che non è loro naturale, e quindi prendere diciamo la briga di farlo da sé, perché magari in realtà lo stai facendo in un luogo non idoneo. Ovviamente però, se voi disponete di un giardino abbastanza grande, con spazio, nel clima giusto, vi siete informati per bene, il vostro vivaista ha detto di sì, il vostro giardiniere pure, potete azzardarvi a piantarlo. O farlo piantare al giardiniere. Però se proprio voleste farlo voi... E adesso vediamo. E se no, appunto, per quanto riguarda invece quelli artificiali, tristemente, come già stato annunciato, andranno probabilmente... O in discarica, in sostanza. O in cantina. Sì, finché durano. Se ce l'avete, cercato di farlo durare. Perché esatto, almeno... perché dopo se no finiscono male per ora. E... ricordo che mia mamma ha odiato il nostro alberino finto, diceva che era brutto e che lo voleva buttare. Invece mamma, se stai ascoltando, sappi che in realtà andava tenuto per un sacco di tempo. So che l'hai buttato, però no, bisognava tenerlo di più per farlo fruttare. Esatto. E niente, quindi ci stavate dicendo, vostro giardino privato, piantare o non piantare, succede? Vi vorremmo spiegare, se già voleste. Già ci siamo in tema, sì. Però magari prima si fa uno stacchettino musicale. Sì. E poi vi spieghiamo un po' quali sono le regole generali per cui si può piantare un albero in giardino, quali sono le cose che sono necessarie per farlo bene. Ma prima un po' di musica. Esatto, e quindi... vi buttiamo lì Salif Keita con C'est bon, c'est bon. A dopo. Dopo. Hey yo, people in the world, try to say to the UK, J.A. to Mali, how we do? Yo, decent people, stand up and be equal. From the left to the right. Nous les, c'est ça. Nous c'est bon. against the old world. But he can't do nothing to change the old world. Mr. Big Man, Mr. Big Plan, but he needs more love for the people of the land. It don't have to be so hard. The love can't fly with supercharged. Up in the sky when we wave it so. Scan for change when we rearrange it so. Look into the matter and prepare thyself. Get a little knowledge in the deeper world. Step, step, step up, people of the pepper. Hot fire blaze all over the place. We engage, most proud to say so. Eccoci tornate. Ci siamo. Ci siamo. Allora, ragazzi, il pad c'è, scriveteci. Anche forza, perché non potete lasciarci con delle votazioni pari, perché sennò no, è un esatto. casino. Adesso siamo a pari, quindi non va bene. Allora, il pad è pad.ciste.org e digitate quello. Prendete il primo risultato e poi nella barra scrivete diretta Wombat. Premi invio e boom, ci siete. E lo vedete, poi c'è scritto diretta Wombat, quindi non vi sbagliate. Se no, anche dal sito di Radio Wombat, radiowombat.net, trovate il bottoncione giallo della diretta, pigiate lì, vi si apre la pagina con il link per la diretta pad. Quindi cioè, vi si è detto 6.000 volte ormai. Sì, quindi... Adesso questa volta molto più precisa anche, quindi no, dovete... Vedete che la precisione è importante. Giusto, hai ragione. Oh, mannaggia. Vedete, dovevate capirlo anche prima. E quindi allora adesso, visto che vi abbiamo un attimo accennato che una delle cose che si può fare è ripiantare i nostri cari alberi di Natale in giardino, per la rubrica Giovanna dice, faremo un piccolo riassunto, poi ovviamente bisogna sempre sentire pareri un po' più specializzati, penso, per fare un lavoro fatto bene, su come piantare un albero, che sia poi il nostro albero di Natale o un altro albero, come piantare un albero nel nostro giardino. Quindi, rubrica Giovanna dice... Improvvisazione, sì. Allora, per fare un attimo una piccola introduzione, secondo me è importante dire che piantare un albero, per l'albero è comunque sempre un po' uno stress. Quindi è una cosa che lui affronta con un po' di difficoltà. E questo perché noi possiamo capirlo, no? Un po' come se noi ci trapiantassero da un posto all'altro. Ci vuole un po' di tempo per ambientarsi, esatto, un po' come se ci lanciassero, no? Come un po' abbiamo detto l'altra volta. E, quindi pensiamo a queste povere piante che comunque o sono state allevate in terra e quindi erano in terra o in vaso, comunque vengono spostate o da un terreno all'altro, da uno spazio più piccolo all'altro, quindi anche le radici hanno bisogno di un po' di tempo per adattarsi, tutto, radici e comunque apparato aereo e tutto. Quindi bisogna cercare di minimizzare questo trauma con dei piccoli accorgimenti che adesso vedremo, che sono quelli che gli permetteranno un attecchimento quasi più sicuro, perché comunque bisogna specificare che la moria nelle piante dopo l'impianto non è una cosa impossibile, cioè accade, purtroppo accade. Però sì, infatti appunto le piante sono esseri viventi, come si è ribadito tante volte la scorsa puntata, continuiamo a farlo questa e le prossime, quindi cerchiamo di considerarli come se fossero noi, come se fossero, diciamo, umani, no? Che abbiamo di solito più empatia con gli umani che con qualsiasi altra cosa, anche se spesso manca anche con gli umani. Cioè, però a volte in realtà amici, tante persone ce l'hanno più con le piante che con gli umani. È vero, quindi è vero. Quindi non consideriamoli come umani nel senso che sono simili a noi, perché sono diversi in molte cose, però cerchiamo di portare lo stesso rispetto e esatto, tutto esatto, anche la stessa cura. Lo stesso la stessa tipo cura, di, esatto, sì, di cura, proprio perché hanno delle necessità in quanto esseri viventi e chiaramente appunto se le trapiantiamo è ovvio che si porta uno stress, no? Esatto, quindi per specificare, visto che mi sembra importante, come abbiamo già detto prima, prima di mettere a dimora un albero nel nostro giardino dobbiamo assicurarci di due cose fondamentali, direi, che il clima intanto sia quello adatto, perché ogni specie ha delle necessità in fatto di temperature, umidità, piovosità e quant'altro, quindi il clima in cui noi vogliamo mettere le piante, la pianta deve essere adatto, e poi anche a livello di terreno, ci sono piante che hanno bisogno di terreni più acidi, terreni meno acidi, terreni più compatti, più ariosi, e quindi per fare una cosa proprio fatta per bene si fa un'analisi del suolo, quindi per capire quali sono le caratteristiche, oppure ci facciamo, come abbiamo detto prima, dare un po' un parere dal giardiniere oppure dal vivaista. Però adesso, dette queste piccole due cose, vediamo quali sono i passaggi per mettere a dimora il nostro albero. Esatto, esatto. Allora, quello che avremo come materiale di partenza, diciamo così, è quindi un albero con una zolla, quindi una parte di terreno intorno alle sue radici, e che si può presentare o già in vaso, infatti appunto molto spesso succede, si prende una pianta in vaso e la si mette in terra, magari nel giardino appunto per dargli miglior vita, o magari semplicemente perché abbiamo un giardino, e quindi possiamo avere una pianta in vaso, o altrimenti a volte se si compra una pianta da un vivaio ce la possono fornire con sì la zolla, ma poi intorno un sacco di juta, per esempio, un materiale un po' comunque traspirante sicuramente, che serve a contenere la zolla, comunque vabbè, in queste due forme. Quindi allora i passaggi sono chiaramente decidere la posizione all'interno del proprio giardino, anche perché tra l'altro un albero comunque, se è un albero grande soprattutto ha una presenza importante, cioè bisogna immaginarci quanto verrà grande dopo 30 anni. Esatto, quindi comunque esatto, conoscere anche un po' come sarà la pianta che mettiamo a dimora. Tra l'altro l'errore più banale che si fa nelle progettazioni verdi urbane è di mettere degli alberi che diventano di 40 metri con la chioma larga 15 metri appiccicati a una casa. E poi si fanno, sono piccoli adesso. Esatto, e poi si fanno grandi potature. Come quelle della nostra immagine. Esatto, quella. Quella non aveva proprio senso, non c'erano case, però il concetto è quello. Però diciamo, esatto, se non volete tutti alberi brutti, anche se sono simpatici in quella foto, però sono brutti e un po' tristi, state attenti. Ok, quindi decidiamo appunto la posizione nel giardino. Poi, primo passaggio, secondo diciamo, si leva il manto erboso che probabilmente è già presente nel giardino e si fa la buca. La buca ovviamente deve essere proporzionata con la zolla, quindi col pane di terra intorno alle radici. Quindi si scava un po' in profondità e si controlla che la profondità sia adatta per la zolla che abbiamo. Appunto, deve essere ovviamente un po' più profonda di quanto è grossa la zolla, se sì, mi sono cioè, spiegata. Non si deve sotterrare il colletto, che è quella parte dell'albero che insomma separa il fusto, il tronco dall'apparato radicale, perché appunto quella non deve diciamo mai essere la congiunzione, esatto, sì, dove si allarga, si vede, un pochino si, esatto, allarga, si vede perché c'è una sorta di allargamento del tronco verso le radici, e quella è bene non sotterrarla, esatto, però allo stesso tempo serve fare una buca un minimo più profonda affinché comunque si possa smuovere un po' il terreno anche sotto, esatto, al, sì, pane di terra intorno alla radice. Esatto. Quindi poi si aggiunge un po' di terriccio mischiato con del concime, se volete prendete quello bio perché siete dei superamente alternativi, e, e si mischiano un po' insieme appunto per amalgamarli. E poi quindi mai lasciare gli strati, importantissimo, mai lasciare, esatto, gli, sì, strati separati. Sì, perché può dare problemi alla pianta, sia in positivo che in negativo, esatto, diciamo. Sì. Quindi poi si avvicina la zolla, si posiziona la zolla all'interno della buca e si continua a riempire con il terriccio. E prima di magari compattare un minimo il terriccio, però servirebbe mettere i pali, tutori si chiamano, quindi due pali laterali o anche tre, ancora meglio tre infatti, e intorno al tronco del nostro albero, perché noi dovremo ancorare l'albero a questi pali perché questo non oscilli troppo. Infatti ci dobbiamo immaginare che un albero appena trapiantato in terra non ha ancora attecchito a terra, cioè le radici devono un attimo risvegliarsi, capire che sono state catapultate in un posto diverso che loro non conoscevano, iniziare a risvilupparsi, a crescere e ad ancorarsi al resto del suolo nuovo che si trovano intorno. Esatto, perché è importante che l'albero si ancora al suolo con le radici, quindi la sua stabilità è data da quelle. Insomma. Esatto, infatti. Ed è bene appunto, come dicevi giustamente, avere una zona più larga proprio per questo, perché se no succede quello che spesso accade anche nei poveri vasetti di piccole piantine, dove le radici si arrotolano su se stesse, esatto, o non riescono insomma ad andare oltre la zolla piccolina, che però non è sufficiente, sì, per tutto. Esatto, esatto. E, quindi appunto questi tutori si piantano per bene in terra in modo che quelli siano solidi e che non caschino e niente, e si connettono nella parte più alta con altri pezzi di legno, per esempio, insomma altri piccoli tronchettini di legno, in modo che non si muovano. A questi tronchettini di legno si deve anche infine ancorare il tronco dell'albero, così che appunto abbia un posto dove scaricare le proprie oscillazioni dovute per esempio al vento. Esatto, però... e proprio per questo è importante non mettere questi, cioè mettere questi tronchetti nella parte alta, ma non troppo in alto, perché sennò la pianta non ha modo di adeguarsi comunque a magari ai venti che ci sono, quindi è giusto proteggerla un po' e ancorarla, però è bene che lei un po' senta il vento, senta quelle che sono le correnti principali, per sviluppare anche del legno che le permetta di bilanciarsi un pochino. Sì, esatto. Infatti questo è un argomento molto interessante secondo me, sì. Ovvero una pianta in natura normalmente non la vedrete mai con i tutori, chiaramente, no? Cioè non è che esistono i tutori normalmente, però... per esempio la troverete in mezzo a un bosco. Cosa succede in un bosco? Ci sono tanti alberi l'uno vicino all'altro, agli altri, scusate, molto fitti, e quindi loro si proteggono a vicenda dalle oscillazioni che li provoca il vento. Esatto. Quindi quando invece una pianta è isolata da sola non ha nessuno che la sostenga praticamente, no? Quindi deve fare tutto da sola. E cosa succede quindi quando una pianta oscilla in questo modo? Ma anche se l'oscillazione è molto molto piccola, cioè proprio è un processo naturale che la pianta fa sempre, rinforza il proprio legno, la propria parte legnosa, creando un... come si chiama? Un legno di reazione. Un legno di reazione, esatto, grazie. Questo però, il legno di reazione, si creerà proprio nel punto dove c'è maggiori sollecitazioni. Quindi se noi immaginiamo di ancorare i tutori alla parte molto alta della pianta, del tronco della pianta, quella parte lì sarà stabile, però magari ancora un po' più in alto invece no, quindi quel legno più resistente si svilupperà soprattutto molto in alto nel fusto, che magari non è che ci interessi molto. Invece se i tutori si mettono più bassi, immaginiamo, metti un metro di altezza, e appunto le oscillazioni ci saranno comunque molto nel fusto, e non dove è ancorato appunto ai tutori, ma un po' più su magari. Ora, un metro di altezza è comunque poco, servirebbe ancorarlo un po' più alto, però appunto non troppo più alto. Insomma, il discorso fondamentale è che noi bisogna aiutare la pianta a non cascare, dopodiché dobbiamo permetterle di rinforzarsi e dobbiamo fare in modo che questa sia in grado di sostentarsi da sola dopo un certo tempo. Sì, perché i tutori non ci saranno per sempre, infatti, quindi bisogna permetterle di non averli più dopo più un o po', meno, insomma. Dopo magari 2-3 anni si levano. Sì. E comunque appunto poi l'altezza dipende ovviamente anche dall'altezza del vostro albero. Esatto. Assolutamente. Una piccola specifica, ci eravamo dimenticate di dirlo prima, che generalmente è meglio mettere a dimora piante che siano un po' più piccole, un po' più giovani, perché si adattano meglio, sono più reattive a livello di metabolismo. Esatto, mentre le piante un po' più grandi, quindi mi sembra di sapere che più o meno le piante che arrivano fino a 10 anni di età si adattano abbastanza bene, poi cominciano a fare un po' più di fatica, insomma, sono più acclimatate nel loro. Anche perché, come vi abbiamo spiegato anche l'altra volta, le piante non si muovono, diciamo, dal loro luogo, si muovono in altra maniera diversa da noi, e quindi quello che fanno è anche adattarsi crescendo molto lentamente al posto in cui stanno. Quindi, tra l'altro, tipicamente una pianta molto longeva ha una crescita molto lenta. Esatto. Sì. E viceversa, è esatto. Anche il contrario. E quindi il fatto di, diciamo, trapiantarle da giovani fa in modo che, diciamo, la pianta possa avere ancora tanti anni davanti per potersi adattare all'ambiente nella quale è stata piantata nuovamente. Proprio così, sì. Esatto, altra piccola postilla invece a proposito dei tutori, si è detto che serve ancorare la pianta ai tutori, ma come? Si può, un metodo molto funzionale e comodo è usare un tipo di filo gommato, cioè fatto di gomma, che quindi sia un pochino streccioso, un po' elastico. Tipicamente si trovano di colore verde, magari li avete visti a giro, e si ancorano in quel modo, così che deve essere ancorato un po' stretto comunque il tronco, se no è troppo lasco, se no non serve a niente, più esatto, altro, se no non serve appunto. Però la cosa buona di quel filo è che, essendo un po' elastico, il tronco via via che cresce comunque riesce un po' a espandersi nonostante sia costretto dal filo. Però, nonostante questo, sto filo va cambiato ogni tanto, quindi non deve arrivare al punto che strozza proprio il tronco nel punto in cui questo accade molto in ambito urbano. Magari fateci caso andando in giro, sì, guardate i nuovi impianti, ovunque. Vedrete che tutte le piante di solito sono un po' deformate nel punto in cui ci sono gli attacchi. Appunto perché non vengono cambiati mai, andrebbero cambiati, non lo fanno. E anche per questo appunto è diciamo il tutore non va messo attaccato al tronco, perché magari è una struttura che dopo più difficile, se la piantate bene, più difficile da muovere, quindi rischia di danneggiare il tronco, ma tra il tutore e il tronco deve esserci un'altra cosa, come appunto vi abbiamo appena detto, quindi è bene tenere, diciamo, tutto diciamo più o meno lontano, o in maniera da poterlo poi le togliere nel mentre la pianta cresce. Sì, o comunque per esempio nei due pali, che è un po' più difficile distanziarli, mettere comunque qualcosa che separi, ecco, esatto, il fusto dal tutore. Comunque, quindi, una volta messi i nostri tutori nella buca, allora solo dopo, ricordatevi, perché sennò è difficilissimo piantare i tutori, dopo aver messo i tutori nella buca assieme alla pianta, controllato che la pianta sia all'altezza giusta, che sia più o meno dritta, insomma, non piantate gli alberi stortissimi. Non è facile, ma provateci. E quindi dopo aver fatto questo potete riempire la buca, mi raccomando, con un misto di terriccio e terra del giardino, e poi nulla, pulire un po' l'aria, perché avrete fatto sicuramente un casino, succede sempre, e quindi poi magari date una ripulita. Se siete stati bravi a togliere il manto erboso, potete anche rimettercelo sopra, tanto lui riradica. Quindi, e voilà! Grande capacità dell'erbetta. Esatto. Sì. Niente, speriamo che siamo state abbastanza chiare. Nel caso potete farci delle domande anche sul pad. Assolutamente. Chiedete, se riusciamo a rispondere. Sì, dai. Ci metteremo tutto l'impegno possibile. Certo, saremo sempre, sì, quello che riusciamo, esatto. Oneste. E nulla. Bene, dai, vi intratteniamo con ancora un pochino di musica e vi metto Tall Ground Deluxe. Buon ascolto. Gonna get the message. We ain't gonna waste it, let me tell thee, cause every single minute be more wild and free. Towards affinity we share the circuit and beyond, defying gravity we drive the vessel on and on. Hear me come through the sun, danger to the microphone, raging my way through the sun, sending you back home, sending you back home. Jump, jump, jump. Vi state scaldando? Questa era carina, eh? Abbiamo solo cominciato. Esatto. In realtà, altre tre ore su alberi di Natale. Dai, si balliamo questi alberi di Natale. Oh, ecco, vedi, un'altra cosa che potete fare dopo che è finito il Natale, potete andare in discoteca con il vostro albero di Natale e ballare con lui, va bene? Sì. Smesso di delirare. È un ottimo compagno. Le disco, tipo quei cimali, così si muovono meglio. Oh, yes. Sì, sì, sì. Più leggeri. Sì. Mm. Gli fate vivere una nuova vita prima di andare a morire. Esatto. Esatto, vi ringrazierà. Non lo so, forse magari è lì che pensa, ma io neanche volevo andare in casa loro, mi hanno portato pure in discoteca. Ma fatto, poi voglio. Ok, allora siamo giunti un po', diciamo, alla parte di conclusioni finali, di tirare le somme. Esatto. Allora, quindi tirare somme sui che, su se è meglio usare, insomma, comprare un albero vero o un albero finto. In realtà abbiamo parlato molto più degli alberi veri che di quelli finti, ma ovviamente quelli finti c'è poco da dire. Però vabbè, ribadiamo, sono alberi di plastica tendenzialmente o materiale misto, magari c'è altri tipi di robe che non è plastica nel mezzo e che quindi tendenzialmente non si riciclano. Però, come ci ha detto la nostra fedele ascoltatore o ascoltatrice, possono essere anche in PLA, quindi plastica biodegradabile. Ma chissà che fine fanno, comunque probabilmente non vanno nel compost come speravamo. E questi sono gli alberi finti. Gli alberi veri invece sono piante vere, sono esseri viventi e tutto, no? adesso forse piano piano si riesce a metabolizzare questa cosa, che non è facile capire che la pianta è un essere vivente, cioè anche per me, per noi, secondo me non è facile per nessuno capirlo, perché non dà l'idea di, in un certo senso. Bisognerebbe imparare a osservarle un po'. Esatto. E osservando, se si osservano invece, dopo un po' si capisce che si iniziano a conoscere. Un po' alla fine con le persone, che devi starci un po' di tempo. Sì, solo che dopo un po' le piante mi piacciono, le persone meno. frecciatine, scusate. Si scherza ovviamente. Voi ascoltatori ci piacete. Esatto, se rispondete votate ancora di più. Esatto. Vabbè, questa era una frecciatina. In questo caso a me in particolare, perché vi diremo solo alla fine chi sta vincendo, ma forse lo potete intuire, io sono felice. E quindi per questo dovete continuare a votare? Votate, se vi piace di più la foto delle nervature, poetica, bella, fatta benissimo. Potete smettere di... Scherzo, sto scherzando, rimanete qua. Se vi piace di più la foto dell'albero spelacchiato, poverino, chissà chi l'ha ridotto così. Non mi ricorda un po', è presente quell'aggeggio con cui si puliscono i WC? Sì, lo scopino. Ma infatti è una grande metafora quella foto. Io l'ho sempre chiamato scopino quell'albero, infatti. Scopino. Io non ci ho mai fatto caso. Comunque. Allora, per capire un po' qual è meglio scegliere fra albero vero e albero finto, si voleva fare un po' una panoramica riguardo all'inquinamento, cioè a quale inquina di più, quale inquina meno. Praticamente cosa c'è da valutare, cosa ci sarebbe da valutare nell'analisi fatta perfetta, tutta una serie di cose, cioè l'inquinamento che produce la produzione dell'albero finto, come anche quella dell'albero vero, quindi produzione e coltivazione in questo caso dell'albero vero. Quanto inquina invece il trasporto, quindi da dove è stato prodotto o coltivato a invece la casa, fino a casa mia per esempio, insomma la casa di chi lo usa, quindi quanta strada c'è, come viene fatto il trasporto, se su gomma, se su rotaie, eccetera. Rotaie, giusto. Sì. Quelle del treno, non quelle del tram. Portare tutti quegli alberi in tram potrebbe essere un po' difficile. Bellino, in tramvia gli alberini di Natale accanto a me, che carini. Potrebbe essere carino. come avete capito, vorremmo i nostri alberi molto da molt'altre parti, esatto. Sì. Però questo è un altro argomento. Una grande compagnia. E poi infine c'è da valutare lo smaltimento, quindi tutto ciò, cioè cosa se ne farà dopo l'utilizzo. Quindi abbiamo trovato un po' di dati dalle nostre accurate ricerche e vi diciamo anche di chi sono questi dati, così che noi non abbiamo colpa, l'hanno detto loro. Vorrei partire da un'indagine che ha fatto il DAGRI, che è il Dipartimento di Agraria di Firenze, tra cui appunto ci sono presenti tanti professori anche molto rinomati dell'Università di Firenze, gente anche che più o meno indirettamente conosciamo anche noi, insomma gente che ne sa, ecco, gente rispettabile per questi argomenti, ecco. Quindi l'indagine del DAGRI ha detto che per la produzione, quindi si è occupata soltanto di quantificare qual è l'inquinamento della produzione degli alberi di Natale, per produrre un albero vero dell'altezza di 1,8 metri più o meno, chiomafo, olta, bella e carina come ci piace a noi, si inquina, cioè si emette 0,522 kg di CO2, così dicono. Mezzo chilo. Eh sì. Quelli un po' più lenti come me, no? sono troppo scientifica. Invece, così dicono, quindi boh, non ci sfida. Invece un albero finto emette fino a 19,4 kg di CO2, che quanti sono? Sì. 19 e mezzo, ragazzi. Quasi 19 e mezzo, esatto. Quasi 20. Quasi 20. 20 kg. Anche se 19,4 si arrotonda a 19 di solito. Hai ragione, sì. Quindi se vogliamo essere proprio precisi, sono 19, dai. Per difetto. Stiamo orientando nello scientifico. Meglio proseguire. Infatti. Quindi è palese che ovviamente un albero finto inquina molto di più di uno vero. Inoltre, se volessimo fare in modo che i due inquinino nello stesso modo, dovremmo riusare l'albero finto un sacco di volte. Cioè, allora scusate, mi spiego meglio, mi sono spiegata un po' male. Allora, ipotizzando che l'albero vero lo usiamo un anno e subito dopo il Natale si butta via, si brucia o si mette in compostiera, comunque non si ripianta, quindi l'albero muore, e considerando invece che un albero finto lo si può riusare per più anni, se riusiamo l'albero finto per almeno 37 volte, quindi 37 anni, allora le emissioni di CO2 fra albero vero e albero finto sono uguali. Si pareggiano. Si pareggiano, però... Come approssimazione, meglio 40. Meglio 40. Così siamo 40, possiamo approssimare a 40. Esatto. Quindi 40 anni di albero finto, Sono tanti, sono tanti. Sì, cioè, sono veramente tanti. Già adesso, in quest'epoca, il consumismo è tutto, quando tieni una cosa più di 5 anni già sembra un miracolo, quindi insomma fra 5 e 37. Questo è vero, ma non lo sai di tutti i modelli di alberi di Natale che escono ogni anno? L'albero di Natale, quello un po' più moderno, tipo l'iPhone. Ah giusto. Quello con la neve, quello senza esatto, la neve. Esatto, stavo proprio per dire quelli innevati, belli. Ci sono anche quelli innevati con le punte rosse, io ne ho visti una volta, non sono per niente belli. Allora, quindi allora, potete, se volete fare una collezione, però l'importante l'importante è che poi ve li teniate tutti i 40 anni, esatto. Non li dovete buttare via, esatto. Altrimenti è uno spreco enorme. Esatto. La vostra eredità consisterà in alberi di Natale, esatto. Finti. Così. Nel vostro testamento mettete quelli. Oh mamma, è tristezza. Va bene, e questi erano i dati del Dagri. Si presuppone sia piuttosto affidabile. Invece The Guardian, che è un giornale, dice più o meno la stessa cosa, ovvero che, scusate, che l'albero, che l'albero finto inquina molto di più di quello vero, però fa un'indagine, una valutazione un po' diversa, perché valuta sia la produzione che il trasporto che lo smaltimento, quindi sono dati più a 360 gradi, sì. Diciamo. E paragona due alberi sempre della stessa altezza e sempre con la stessa chioma bellina, carina e folta, quindi dovrebbe essere fatta bene come indagine, da quel che dicono, ecco. E però i numeri che dice sono sensibilmente diversi. Dice che un albero vero inquina 16, cioè inquina appunto, emette 16 kg di CO2, mentre invece uno finto fino a 40 kg di CO2. Quindi appunto inquina molto di più. Sì, appunto questo. Invece l'ultima fonte che vi citiamo è La Repubblica, quindi un giornale nostro, che anche lì dice l'albero finto inquina molto di più. Dice circa 35 kg di CO2, anche questa dovrebbe prendere in analisi sia il trasporto che lo smaltimento anche. Però da un dato molto diverso, ovvero che secondo loro, o chi ha fatto l'indagine, insomma, un albero finto dovrebbe essere riutilizzato per 10 o 15 anni almeno. E insomma, il Dagri ci diceva 37 anni, non lo so, è un po' diverso. È vero che appunto il Dagri prendeva in analisi soltanto la produzione e non il trasporto e lo smaltimento. Quindi vabbè, è un dato diverso, però... Ma forse è anche, insomma, è anche per questo che comunque è bene guardare quelle che sono le produzioni vicine a noi, proprio anche per limitare il trasporto e quindi quel consumo lì. Esatto. Comunque tutte queste analisi, tutti questi calcoli sono fatti ipotizzando appunto che l'albero vero venga buttato dopo un anno, quindi che non si riutilizzi e che muoia dopo il primo anno di utilizzo. Però, come vi abbiamo sollecitato prima, appunto un albero vero può anche avere una vita successiva al Natale, ovvero può essere ripiantato in un giardino, in un parco, da qualche parte, o può essere ridato a un vivaio affinché questo ne continui la coltivazione e poi magari lo rivende o comunque esatto. Lo pianta da un'altra parte. In tutte queste possibilità qui è abbastanza palese che un albero vero sia assolutamente meglio a livello di inquinamento ambientale rispetto a uno finto. perché durante tutto il corso della sua vita continuerà a mangiare CO2 per trasformarlo in ossigeno, quindi fa comodo a tutti, insomma. Poi se la tiene anche lì, quindi gli alberi se la tengono tutta vicino. Sì, sono biomassa vegetale, quindi è un serbatoio di carbonio. Finché l'albero è vivo, la CO2 rimane tutta stoccata lì. Esatto. E meno nella poi i carboidrati, quelli che non piacciono a molte persone. Esatto. Loro se li pappano. Li adorano, sì. Ok, quindi appunto abbiamo un po' finito tutta la nostra mitica spiegazione degli alberi di Natale. Una quasi soluzione a questo, sì. Quindi fate la vostra scelta. Comunque di base fate quello che vi pare, cioè nessuno verrà a bussarvi alla porta. Questo, perché avete questo fatto lo dice certa... adesso, vedrete l'anno prossimo Natale. Oi ai ai. Per non dare spoiler. Comunque in generale... Non vi possiamo dire cosa fare e cosa non fare, quella è anche una cosa molto soggettiva, però magari se avete alberi veri l'anno prossimo cercate di informarvi prima su quali possono essere centri di raccolta, vivai che possono prenderli, uh-huh, gli alberi e tutto, quindi magari queste sono cose a cui dare un occhio. Uh-huh. Uh-huh. E in ultimo appunto vi volevamo un attimo riportare delle cose che abbiamo banalmente osservato a giro, senza documentarci in modo complicato, ma semplicemente andando in giro a Firenze. E a proposito di appunto decorazioni natalizie, sono stati fatti alberini veri, finti di Natale, eccetera. Allora, come prima cosa vi dico che ho visto che hanno iniziato a piantare una marea di abetini, che adesso forse li hanno levati, spero, tipo filari, nei viali, da qualche parte, tipo sul lungo l'Africo, per esempio, non so se l'avete visto. Questi hanno messo tanti piccoli abetini, uno di fila all'altro, ma dove già erano presenti altri alberi, tipo in lungo l'Africo c'erano dei pini alti, sviluppati, grandi, cioè alberi appunto già totalmente coprenti, no? Hanno piantato questi abeti sotto che è ovvio che non potrebbero rimanere lì, quindi per quello dicevo spero li abbiano levati, perché se crescessero diventerebbero enormi e non crescerebbero molto bene perché ci sarebbe troppa ombra a causa dei pini sopra di loro, però comunque non c'è spazio per loro in quel posto. E quindi niente, a quanto pare il comune ha deciso di spendere un po' di soldini per portare un po' di gente lì a posizionare questi alberini solo per il Natale. Cioè anche lì dico, ma chi se ne frega, no? Opinione personale, però... Detta in modo pacato. Esatto. Sì, stavolta pacato. Quella che vi diceva che potete fare quello che volete, che non mi giudicherà. Sì. Andate. Mi raccomando, poi quando il prossimo Natale vedremo tutti questi alberini. Sì. Esatto. O invece altre cose che abbiamo visto a giro sì, sono... tipo, allora, in Piazza Indipendenza o anche in Piazza Puccini, dei poveri alberelli, anche loro, che non abbiamo capito se fossero cimali o forse con la zolla. Perché hanno un vaso, esatto, però come a volte cercano di mascherarle, esatto, le cime, non esatto si sa bene. Per quello che... apprezzavamo l'onestà era... nel acquaracchi, diciamo. Infatti, il vaso era molto molto piccolo di solito rispetto alla mia, sì, mamma. Sì. Però io in quello in Piazza Puccini mi ci sono avvicinata, mm-hmm, quando stavano levando le lucine dall'albero. Siamo in ritardo appunto, mi dispiace, ve l'abbiamo detto. Però... E non potrete andare a vederli fino all'anno prossimo. Infatti, mi sono avvicinata per cercare di capire se avevano le radici oppure no, e io ho visto fuoriuscire delle cose legnose da quel vaso. Ma quindi, d'altronde non forse... ci si stupisce, perché a volte mettono alberi giganteschi in vasi così piccoli, sì, e non esatto, è una cosa che stupisce. Esatto. Sì. E infatti ragazzi, stiamo attenti, perché questi poveri alberelli grandini così avevano un vasettino minuscolo, e infatti... Il comune probabilmente ha deciso, giustamente, non lo so, insomma, di ancorare dal tronco, far partire dei tiranti che andassero fino a terra per rendere stabile la pianta. Mm-hmm. E hanno cercato... al posto dei tutori che non potevano piantare il cemento sull'asfalto, esatto, hanno deciso di mettere questi tiranti. E che hanno cercato di coprire in una maniera... Cosa veramente un po'... Esatto, qua c'è stata dietro della grande progettazione ovviamente, hanno cercato di coprire con delle vasiere di... con probabilmente alloro dentro, sì, eccetera, che era un po', poverino, anche lui spelacchiato, sì, sempre per tornare in tema, sì, alla nostra immagine. Cioè praticamente mettevano questi tiranti con i tasselli infilati a terra, che appunto facessero da ancoraggio, e sui tasselli, sia per non farli vedere, sia anche molto per non farci inciampare la gente, ci hanno messo accanto un vaso, esatto, con altre cose, tra l'altro mezze morte. Esatto, e quindi cerchiamo di che facesse un effetto proprio... No, questa composizione, diciamo, non era proprio la gran cosa. E quindi, diciamo, appunto, sarebbe stato sicuramente meglio prendere o una pianta più piccola, e quindi se con quel vaso giusto per una pianta più piccola, oppure un vaso che potesse contenere molta più terra e probabilmente quindi a questo punto anche una parte di apparato radicale molto più grande, che la rendesse stabile e autonoma da sola e probabilmente più bella, o senza questa, diciamo, cercare di nascondere problematiche che non si sono cercate di risolvere prima, o insomma quando c'era stata la scelta iniziale. Poi vabbè, abbiamo visto, come avevo detto prima, quell'albero alla facoltà di agraria, che insomma era un po' così, ma ve ne abbiamo già parlato. Sì, che quello appunto era un cimale, e era palesemente un cimale, non aveva neanche il vaso. Quindi tra l'altro vorrei dire che è incredibile che un albero riesca a resistere per... quanto si tengono le decorazioni di Natale? Ho fatto questa puntata e non so neanche questa cosa. Allora, dall'8 dicembre fino alla sensibilità giugno. Del... Esatto. Alcuni fino a giugno, altri sono più... Beh, comunque se volete, in casa mia c'è un alberino di Natale con anche sopra delle uova di Pasqua, perché si tiene davvero tutto l'anno, quindi è per ogni festività. Infatti. Questo in realtà è per sdoganare il fatto che l'albero sia solo a Natale, per quello lo tengono in casa. Esatto, da noi è per tutto, sì, ogni festa. Natale, appunto, buon non compleanno. No? Esatto, anche quello festeggia l'albero. Buona Pasqua a tutti voi, tra l'altro. Assolutamente. No, comunque stavo dicendo che appunto è incredibile che questi alberi riescano a resistere 2-3 settimane, appunto, non sappiamo bene quanto, senza un vaso, cioè alberi appunto tagliati senza più radici, una pianta che teoricamente è già morta, comunque riesce a resistere, nel senso che riesce a rimanere bella e carina e non afflosciarsi, per esempio, esatto, o non far cascare tutti gli aghi, esatto, tutte le foglie, per 2-3 settimane. Sì, cioè è incredibile. Pazzesco, pazzesco. Sicuramente questo, tra l'altro, è dovuto al fatto che sono piante sempre verdi e al fatto che vengono tagliate quando è inverno, quindi quando la pianta è più a riposo. Quindi niente, questo. Quindi esatto, abbiamo fatto anche un excursus su quello che potete trovare in giro. Esatto. E finiamo un po' comunque ricordandovi quanto sono affascinanti, anche per questo, insomma, il fatto che restino così vive, vegeti. Assolutamente. E vi stimoliamo di nuovo a quando andate in giro a Firenze o dovunque siate, dovunque andiate, a guardarvi intorno, a provare a vedere com'è una pianta, che pianta è, se riuscite a riconoscerla, perché siete bravissimi. Esatto. E vi abbiamo insegnato tutto. Ora, insomma. l'essenziale. L'essenziale, l'essenziale, non tutto. Che comunque è la cosa più importante, importante. Di solito. E, insomma, guardarvi un po' intorno e provare a giudicare così se secondo voi quella pianta sta bene oppure no, come mai, eccetera. E per Natale dovrete aspettare l'anno prossimo, mi dispiace, per gli alberi di Natale, però vabbè. Intanto allenate l'occhio, esatto, così esatto, la potete... Esatto. E ricordiamo un'ultima volta di dirci quale... quale sì, quale albero mi piace. Qual è il vostro albero preferito? No, l'immagine preferita. Fra le due che vi abbiamo dato disponibile, ce lo potete scrivere sul pad di Radio Wombat. Vi faremo sapere la prossima volta, lo vedrete, quale sarà, qual è stato il vincitore. Sul pad ci chiedono se pesa di più un chilo di CO2 di ferro. Chiaramente quello di ferro. Domanda ci fate, scusate, ma vorrei dire... E quindi nulla, vi abbiamo detto un po' tutto, spero che vi siate Scusa, divertiti. Devo leggere un altro commento del pad perché mi ha fatto molto ridere. Non potevano metterci dei vigili a reggere gli alberi che almeno facevano qualcosa di utile? Potete proporlo se volete. Potete proporlo. Mi piace comunque. Chi lo fa il turno notturno però? Il turno notturno... Possono stare sempre lì a dormire, tanto basta che gli leghino le cose ai polsi, infatti, stanno infatti. Fermi per terra. mi piace. E va bene, direi che siamo giunti a conclusion e vi salutiamo magari con un ultimo pezzettino che vi scalderà gli animi. E si spera. Si spera di sì, anche perché non siamo in periodi molto caldi. No, infatti, fondiaccio, mamma mia. E vabbè, niente, vi mandiamo Kurd Maverick Dancing 2. Vi saluta Sissi, Addu e Zazzi. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao, ciao belli, buona serata.